Allora, oggi ci addentriamo in una discussione, diciamo, piuttosto critica sull'intelligenza artificiale. Prendiamo spunto da un saggio importante di Evgeny Morozov e, beh, da diverse risposte di esperti uscite sul Boston Review. L'obiettivo qui è cercare di capire perché l'approccio che va per la maggiore oggi, quello focalizzato sull'efficienza, molto guidato dal mercato, ecco, perché forse non è l'unico possibile e magari neanche il migliore per la società. Vediamo un po' le radici e le alternative. Pronti? Beh, il punto di partenza di questi testi è che l'IA non è una cosa neutra che nasce così. Anzi, sottolineano come le sue origini, nella Guerra Fredda, con i finanziamenti militari, pensa alla DARPA negli USA, e poi l'alleanza con le grandi aziende. Abbiano subito spinto tutto verso l'efficienza, il controllo. Quasi come se ci fosse stata una forte lobby dell'efficienza che ha un po' bypassato un dibattito più aperto, democratico, su cosa davvero potremmo farci con l'IA. È un punto fondamentale, sì. Gli autori evidenziano proprio questo. Si è consolidato un paradigma basato sulla cosiddetta ragione strumentale. L'intelligenza vista quasi esclusivamente come, beh, capacità di risolvere problemi, raggiungere scopi già fissati. Ma è una visione un po' limitata, no? E infatti propongono un concetto alternativo molto interessante, la ragione ecologica. Ragione ecologica. Suona, diverso. Non si tratta solo di risolvere un problema dato, ma più di interagire con l'ambiente, quasi, per caso, con curiosità, immaginazione. C'è quell'esempio di Hans Otto Storm, no? Quello sull'uomo antico che trova una pietra e solo dopo gli viene in mente la lancia. L'idea non c'era prima. Nasce dall'incontro. È l'ambiente che, in un certo senso, suggerisce. Esattamente. È un tipo di intelligenza che affonda le radici nell'esperienza vissuta, nella socialità. Qualcosa che, diciamocelo, è difficilissimo da formalizzare, da replicare per le macchine di oggi. E qui, riprendendo anche Terry Wingrad, sorge una domanda chiave. E se la tecnologia, invece di provare a imitare questa ragione ecologica, potesse potenziarla? In noi, negli esseri umani? Bella domanda, sì, però c'è un però. Se guardiamo all'IA di oggi, quella generativa tipo ChatGPT, le fonti notano una specie di contraddizione. Da un lato sembra versatile, creativa, dall'altro però sembra incarnare perfettamente proprio quella logica di mercato, quasi un'etica neoliberista. Poche grandi aziende che dominano noi utenti visti come consumatori o imprenditori di noi stessi. Il potenziale sembra orientato al profitto individuale più che a un beneficio collettivo, sociale. Questo porta a quella che viene chiamata una liberazione troncata. Sì, certo, puoi sperimentare con l'IA generativa, fare cose quasi eolitiche, come dicevamo, ma lo fai sempre dentro un sistema che privilegia il consumo, la frammentazione e gli interessi di chi controlla le piattaforme. Si vede come la spinta alla finanziarizzazione, a mettere davanti il ritorno economico, spinga verso modelli sempre più grandi, il famoso bigger is better. Questo favorisce chi ha già i dati, la potenza di calcolo, e le voci critiche o alternative restano un po' ai margini. Quindi la critica va proprio al cuore. Non è solo tecnologia, è potere, economia. Sono i valori che diamo per scontati. L'invito, mi sembra, è a non cascare nell'hype, nell'entusiasmo acritico, a chiederci sempre: ma chi decide gli scopi? Chi ci guadagna davvero? Proprio così. L'analisi contenuta nei testi suggerisce la necessità di un progetto quasi politico, radicale, per staccarsi da questa lobby dell'efficienza. Si parla di creare infrastrutture tecnologiche diverse, pubbliche magari, basate sulla solidarietà, socializzate, che promuovono quella ragione ecologica, l'esplorazione democratica di futuri diversi, senza affidarsi ciecamente alle soluzioni del mercato o a quelle influenzate da interessi, beh, militari o speculativi. Si citano anche esempi storici, come spunti, il progetto Cybersyn in Cile, per dire, o le idee di Warszawski sulla pianificazione normativa, certo con tutte le loro complessità, ma come idee da cui partire. Insomma, per riassumere, l'invito forte è a guardare all'IA con un occhio più critico, consapevole delle sue radici storiche, degli interessi economici che la modellano. Non è un destino tecnologico inevitabile, è un campo di battaglia, anche politico e culturale. E questo, guarda, ci lascia con una domanda importante per il futuro. Se l'intelligenza artificiale dominante tende a rafforzare questa logica strumentale, quella del calcolo e del mercato, allora quali pratiche, quali istituzioni sociali, culturali, educative possiamo coltivare per rafforzare noi attivamente la nostra ragione ecologica? Come possiamo ridare valore alla nostra capacità di creare significato, di interagire profondamente con l'ambiente tra di noi, in modi che forse sfuggano proprio a quella quantificazione, a quell'ottimizzazione che le macchine sembrano imporci?